di lasciare al professor Verucci, sul quale dirò, mi permetterò di dire due parole di presentazione, anche se non credo ne abbia bisogno, ma forse soprattutto per gli ospiti, gli amici tedeschi, di svolgere la sua relazione pregandolo di restare in ogni caso nell'ambito di un'ora. Aprirei subito poi la discussione sulla relazione di Verucci, pensando di dedicare ad essa tra mezz'ora e 45 minuti, farei un breve intervallo e poi farei svolgere il professor Varnier la sua relazione con conseguente discussione. Ho la sensazione che questo significherà andare un po' oltre le ore 18 che finora sono state le nostre colonne d'Ercole, ma che però in un caso, se non sbaglio, abbiamo superato. Chiedo agli ascoltatori e ai partecipanti al seminario questo impegno un po' particolare, determinato dal fatto che questo pomeriggio si sono venute a concentrare due delle relazioni, a mio modo di vedere, più importanti per il tema che trattano, se non altro, della nostra intera settimana di studio. Devo anche portare le scuse del professor Lill, il quale mi ha pregato di avvertire che avrà un lieve ritardo determinato da un impegno che non aveva potuto rinviare. Quindi l'inizio di questa nostra seduta sarà presieduto da me in via solitaria, sarò una presidenza monocratica di tipo monarchico. Il professor Guido Verucci, che terrà la sua relazione, è titolare della cattedra di storia moderna nella seconda università di Roma. Si è formato alla scuola, direi classica, da cui sono usciti alcuni dei migliori storici italiani del dopoguerra, che faceva capo all'Istituto di Studi Storici di Napoli e in particolare alla figura di Federico Chabot. Ha dedicato i suoi lavori iniziali al tema delle ideologie, diciamo, dell'età della Restaurazione, di ispirazione cattolica, e in particolare un volume che a suo tempo ebbe un grande rilievo nella cultura italiana, anche per la novità del tema affrontato e della vastità del tema affrontato, dedicato alla figura di Félicité de Lamennais, con un sottotitolo che non ricordo esattamente, pare fosse dal tradizionalismo cattolico alla democrazia. Va bene, allora dimmelo. Dal cattolicismo autoritario al radicalismo democratico. Questo era un titolo suggerito, ora mi suggerisce Guido Verucci, da Delio Cantimori, e comunque l'autore preso in considerazione era Lamennais. Dello stesso Lamennais, anzi del gruppo lamennesiano, poi Verucci ha pubblicato anche un'importante antologia dell'Avenir, che era, come ognuno di noi sa, il principale giornale edito nel 48 in Francia e diretto appunto da Lamennais. I suoi studi hanno poi spaziato sul cattolicesimo liberale italiano, ricordo in particolare la cura di un volume dedicato di opere di Raffaele Lambruschini, e anche sul cattolicesimo intransigente, in particolare il movimento delle amicizie cattoliche. Il suo volume, che in un certo senso sta alla base della richiesta che gli è stata fatta, rivolta, di presentarci questa sua relazione, edito dalla Terza, porta, grazie, dicevo, mi pare che non cambi molto, il suo volume, che sta alla base del suo intervento di questa sera, porta come titolo Italia laica prima e dopo l'unità, edito dall'editore La Terza, una grossa ricerca che riguarda quelle correnti poco studiate finora di opinione, ma anche di formazione dell'opinione pubblica, della cultura popolare, della scuola, di tendenza laica o laicistica o anticlericale, fino alle punte estreme di radicalismo ateistico o materialistico. Opera che ha segnato un momento rilevante sulle tappe della conoscenza della cultura italiana del periodo a cavallo, come dice il titolo del volume, del momento dell'unificazione. Ha anche pubblicato un grosso volume, sempre con l'editore La Terza, dedicato alla storia, a una storia della Chiesa, per la verità ai rapporti tra Chiesa e società, nel Novecento, in sostanza, dalla Prima Guerra Mondiale al Concilio Vaticano II, anch'esso edito dalla Terza e molto utilizzato come opera d'insieme, nello stesso tempo impegnata in una interpretazione molto coerente, lineare, di fenomeni storici e di epoche storiche così complesse, oltretutto proiettate su una dimensione internazionale, diciamo di scala europea. Questi sono i lavori più grossi, e naturalmente poi Verucci ha collaborato costantemente ad alcune delle riviste scientifiche e storiche che si pubblicano in Italia. Gli cedo la parola per la sua relazione. Grazie. Grazie, Antoniello. Un argomento come quello affrontato in questa relazione introduttiva implica, io credo, più di altri, preliminari precisazioni di carattere terminologico, concettuale e relative alla definizione dell'ambito o degli ambiti di ricerca. Per quanto riguarda i termini usati, anticlericalismo e laicismo, ecco, dico subito che negli anni del Kulturkampf, diciamo negli ultimi decenni dell'Ottocento, essi sono poco correnti o solo parzialmente correnti, non sono, diciamo, del tutto tratti dal linguaggio del tempo. Il primo termine, cioè anticlericalismo, nella forma di sostantivo ma anche in quello di aggettivo, non si trova praticamente usato da coloro che fanno professione di anticlericalismo, ma semmai, e qui invece abbondantemente, piuttosto dai loro avversari, dagli avversari dell'anticlericalismo, nella cui prosa, nelle cui espressioni, peraltro, il termine è spesso sospetto, in quanto tende a essere molto estensivo, a essere applicato a tutti coloro che non condividono una certa visione dei rapporti fra religione e società, fra i due poteri, eccetera, attribuendosi magari loro un particolare astio, un particolare accanimento verso il clero. È insomma un termine in fondo improprio, desunto dagli avversari dell'anticlericalismo. Il secondo termine, laicismo, nella forma di sostantivo, nel periodo considerato, è introvabile. Appare molto dopo e molto successivo. Quando appare, risulta nei dizionari presentare una varietà di significati, non esprime soltanto quello che provvisoriamente, anche se in modo molto generico, noi potremmo dire, definire un laicismo militante, cioè non neutrale, ma una gamma di significati. E direi molto posteriore è la distinzione che un certo numero di studiosi ha fatto, fra laicismo e laicità. In realtà, i termini che si trovano nel linguaggio del tempo, cioè nella prosa, nell'espressione di coloro che fanno professione, diciamo provvisoriamente, di questi principi, sono laico, certo, o laicale, con il sostantivo laicità, libero pensatore, razionalista, o semplicemente, anzi più generalmente ancora, sostenitore dell'indipendenza della società civile dalla Chiesa, fautore della separazione fra Stato e Chiesa, ostile a ingerenze del clero nella vita collettiva, oppure, qui è una definizione tratta proprio da uno dei leaders negli ultimi decenni dell'Ottocento dell'anticlericalismo italiano, Arcangelo Ghisleri, fautore del progresso in contrasto con l'immobilismo sacerdotale. Va detto anche per completezza che specie negli anni attorno al 60 e più tardi, il termine laico o laicale conserva ancora una sua ambivalenza, è usato dagli stessi laici, diciamo così, ancora in parte nel significato tradizionale di non ecclesiastico, distinto dal clero. Insomma, se per gli anni di cui abbiamo detto i termini anticlericalismo e laicismo usiamo questi termini, usiamo in buona sostanza dei termini convenzionali, coniati successivamente, e che pertanto occorre, credo, chiarire concettualmente. Da questo punto di vista, cioè da un punto di vista concettuale, anticlericalismo e laicismo sono quasi sinonimi, non solo nel linguaggio del tempo, ma anche nel più recente uso storiografico. Per esempio, René Raymond, autore di un noto libro sull'anticlericalismo en France, li usa praticamente come sinonimi. Lo stesso Raymond sottolinea che l'anticlericalismo, a dispetto della particella anti, non è solo un'ideologia negativa, anzi, sottolinea questo studioso, è un'ideologia positiva, politica, sociale, culturale. E allora, se si può accettare di usare questi due termini in una endiadi, cioè in un'espressione che formula un unico concetto con due termini distinti, è per alcune ragioni. Innanzitutto perché l'anticlericalismo è un fenomeno antico, è un fenomeno in parte endocattolico, come Arcinoto, che affonda le sue radici nel Medioevo, dove poi si collega variamente invece un anticlericalismo di tipo razionalista, il periodo rinascimentale, del libertinismo, dell'illuminismo, eccetera, fino a sfociare poi con la Rivoluzione Francese e dopo la Rivoluzione Francese in Italia, in un anticlericalismo che potremmo definire relativamente di massa, le cui prime manifestazioni direi sono collocabili in Francia nel 1793-94, cioè la campagna scristianizzatrice del 93-94, nel 1826, sempre in Francia, la campagna anticlericale che portò alle dimissioni del governo Villèle, che avviò una parziale svolta nella fase della restaurazione, e in Francia, come sottolineò acutamente Rosario Romeo nel suo libro su Cavour, le prime manifestazioni di un anticlericalismo relativamente di massa in Italia sono del 1850, in relazione al sostegno alle leggi Siccardi. Si può usare questa endiadi anche perché esiste un anticlericalismo cattolico, certo, allora in questo caso però la sinonimia con il termine laicismo è più discutibile. E in terzo luogo, direi, e soprattutto, è perché con il primo termine, cioè anticlericalismo, si può designare piuttosto un complesso di idee, di atteggiamenti, di comportamenti, di polemiche che tendono a contrastare quella che viene avvertita un indebito intervento della Chiesa nella sfera, nella vita politica e sociale di un paese. E con il secondo laicismo correlato al primo, appunto in un'endiadi, si può designare lo sbocco di laicizzazione dello Stato e della società, del costume e della mentalità, cui storicamente nell'Ottocento portano idee e comportamenti anticlericali. Parliamo cioè, come sottolinea ancora Raymond, per l'Ottocento, di un anticlericalismo in una società in lotta per la secolarizzazione. E parliamo di laicismo in che senso? Ecco, mi pare utilizzabile in questo senso, che è un significato che si ritrova alla lettera, molto semplicemente, nei dizionari della lingua italiana successivi, parliamo di laicismo come un indirizzo, un movimento che rivendica la piena autonomia dei valori civili, politici, sociali, culturali dalla Chiesa e da una religione confessionale e postula la loro legittimazione, la loro fondazione naturale e razionale, che attribuisce allo Stato un'autorità che non riconosce potestà a esso superiore e un codice di valori morali autonomi. Se questo è vero, se questa definizione è plausibile, utile, allora, come io credo, allora noi possiamo parlare per l'Italia dell'Ottocento di un indirizzo, di un movimento che vede tra le sue file teisti e atei, liberi pensatori e razionalisti, cristiani e cattolici, chiamerei liberi, uomini diversissimi, tanto per fare soltanto alcuni nomi, come Cavour e Minghetti, come Bertrando Spaventa, come Ferdinando Petruccelli della Gattina, favorevole in Parlamento a misure limitatrici dell'attività del clero, e Mauro Macchi, molto vicino alle posizioni del libero pensiero, accanito fautore dell'abrogazione dell'articolo 1 dello statuto, dell'articolo 1 dello statuto italiano, cioè quello che prevedeva la religione cattolica come religione dello Stato, ma assolutamente contrario a obbligare per esempio i preti a intervenire alla festa dello statuto o a proibire loro la raccolta dell'obolo di San Pietro. Ciò che vuol dire che sul piano dei rapporti fra Stato e Chiesa si trovano posizioni ideali diverse, anche molto diverse, dal neo-giurisdizionalismo a un separatismo sia pure corretto, alla visione di uno Stato etico o portatore di una religione politica, allo Stato neutrale o incompetente. Non mi pare che si tratti di un'eccessiva estensione del termine laicismo, perché storicamente gli elementi sopra indicati appaiono realmente unificanti persone, personaggi e gruppi relativi di questo tipo. Certo, è indubbio che sul piano teorico vi era molta differenza fra quanti, come gli uomini della destra storica, assegnavano alla politica ecclesiastica anche il fine di liberare gli aspetti spirituali, come si diceva, del cattolicesimo, dagli impacci temporali, per garantire allo Stato una religione così riformata, così depurata. E riconoscevano, gli uomini della destra storica, un codice di valori autonomi, ma in buona parte di ispirazione cristiana. O quanti, come gli esponenti della classe dirigente, della classe politica del periodo giolittiano, assegnavano invece chiaramente alla religione cattolica un ruolo di instrumentum regni, secondo una prospettiva che alla fine prevalse, o quanti, come gli uomini della sinistra storica, aspiravano invece sul piano ideale, sul piano teorico, effettivamente a contrapporre al cattolicesimo, alla religione della scienza, eccetera. E in ogni caso occorre distinguere, ecco, fra le posizioni ideali e le manifestazioni sul piano della società, che per alcuni aspetti, in alcuni settori, sono state certamente di netta contrapposizione al cattolicesimo, sul piano ideale, ripeto, e sul piano della società, e la concreta politica di governo, che in Italia neanche negli anni della sinistra, negli anni che pure qualche studioso ha definito di anticlericalismo di Stato, sfociò di fatto, mi pare, a fronte di certe manifestazioni esterne, e qui vengono sempre ricordate manifestazioni come il tentativo di gettare nel Tevere la salma di Pio IX nel 1881, la destituzione del sindaco Torlonia primo gennaio dell'88 a Roma e l'inaugurazione ufficiale del monumento a Giordano Bruno a Campo di Fiori, ma sono manifestazioni che non fanno una politica, manifestazioni tutto sommato è considerato poco rilevanti in uno Stato che come tale, nei suoi caratteri, nei suoi fini istituzionali, non si contrapponeva di fatto alla Chiesa. Tanto che la definizione che dello Stato uscito dalla rivoluzione risorgimentale sono state date, quelle Chabot di uno Stato non confessionale, o di uno Stato che mantiene altri un'impronta ateistica e che presenta quindi un confessionismo attenuato, ma non di uno Stato neutrale o di uno Stato laico. Occorre distinguere, credo, fra i valori laici che lo Stato italiano con la destra e con la sinistra si faceva portatore, con tutti i limiti e le contraddizioni che sono note, su cui non mi soffermo, e per imporre i quali storicamente si dovette sviluppare una lotta contro la Chiesa. Bisogna distinguere fra questo e una lotta diretta a contrastare fino in fondo e a ridurre la libertà e l'azione della Chiesa nell'ambito religioso suo proprio, che di fatto, mi sembra, non avvenne. Sul piano della società, poi, il significato del termine laicismo può essere compreso in tutte le sue valenze solo se collocato profondamente nel contesto storico, ovvero in un contesto storico dell'Italia degli ultimi decenni dell'Ottocento di cui parliamo, in cui la convinzione religiosa è generalmente, voglio dire, a livello di mentalità relativamente di massa, collegata con una certa filosofia atomistica, con una certa visione della scienza fissista e con una certa cultura politica controrivoluzionaria e intransigente, per cui qualsiasi passo in direzione di una autonomizzazione, ovvero di una laicizzazione e fondazione umana della politica, della filosofia, della scienza, della morale, viene avvertito sia da coloro che ne sono fautori, sia da coloro che lo contrastano, come un attacco diretto alla convinzione, alla fede religiosa. Ci vorrà del tempo prima che questa visione si modifica almeno parzialmente. Qui l'esempio, uno degli esempi più vistosi, mi sembra quello delle discussioni divampate a partire dalla metà degli anni 60, al momento dell'introduzione del darwinismo e più tardi a proposito della vivisezione a scopi scientifici, che è stata recentemente ricostruita con molta lucidità e anche con molto equilibrio da Giovanni Landucci in un libro appunto intitolato Darwinismo a Firenze. Cioè discussioni che furono a lungo cariche di significati politici e ideologici da una parte e dall'altra, per gli stretti legami che la visione religiosa della creazione, dell'origine dell'uomo, aveva con un sistema scientifico che postulava la immobilità della specie, con una interpretazione letterale della Bibbia, della sua cronologia, eccetera. E anche qui ci vorrà del tempo, bisogna aspettare la fine dell'Ottocento, per arrivare appunto a parziali dissociazioni di questo impasto. Per quanto riguarda gli ambiti di ricerca, resta tuttavia la difficoltà di individuare con sufficiente precisione, sono discorsi appunto metodologici che propongo, come specifico oggetto di indagine storica, tendenze e ambienti di ispirazione anticlericale e soprattutto laica, per il carattere diffuso, nonostante tutto, e pervasivo che questi aspetti hanno, per i legami che conservano con il mondo non anticlericale e non laico, sul piano culturale, come sul piano politico dello Stato, come sul piano della società. Si tratta quindi probabilmente di studiare, di ricostruire piuttosto alcune manifestazioni di anticlericalismo e di laicismo più originali, meno note, più circoscrivibili. E qui posso dire che gli studi, lo accennava il nostro presidente poco fa, che gli studi sull'Italia anticlericale e laica nel corso del lungo periodo del secondo dopoguerra sono proceduti in modo molto limitato e molto sporadico, e solo raramente questa cortina di indifferenza, di scarso interesse, insomma, è stata rotta. Lo notava fra gli altri uno studioso francese in una acutissima rassegna di studi su questi argomenti pubblicata nei Mélanges de l'École Française nel 1986, Jean-Pierre Viallet, e tra l'altro sottolineava così come il grande avvio, il grande sviluppo degli studi sul movimento cattolico non avesse quasi per nulla affrontato il tema degli avversari del movimento cattolico. Sottolineava come i grandi studi sul movimento operaio, i larghi studi sul movimento operaio socialista non avessero affrontato quella che era una delle matrici fondamentali del movimento operaio socialista, appunto l'ideologia anticlericale e laica. E sottolineava come pure gli studi che ci sono stati, sia pure successivamente, sulle correnti liberali, radicali e repubblicane, abbiano anche qui appena sfiorato l'argomento. carenze tanto più gravi, in quanto non c'è dubbio che un'Italia anticlericale e laica sia esistita, nonostante tutto, nonostante i suoi limitati successi, i suoi fallimenti, eccetera. Appare indubbio innanzitutto che esigenze e rivendicazioni di allora, molte delle quali sembravano utopiche, illusorie, si sono di fatto realizzate, hanno contribuito fortemente alla crescita civile e culturale del paese. Senza dire che la spinta anticlericale e laica ha da allora condizionato in molti modi, sui quali adesso non mi sto a soffermare, la stessa evoluzione del movimento cattolico, delle correnti interne al mondo cattolico, la stessa organizzazione per certi aspetti del mondo cattolico. Le iniziative laiche hanno avuto un riscontro così polemico in certe iniziative di parte cattolica. E quali sono le ragioni della indifferenza, della quasi indifferenza della storiografia italiana di fronte a questo argomento? Qui appunto a lungo si potrebbe discutere, io accenno semplicemente. Direi paradossalmente questo, ecco, un paradosso, sì. Questa indifferenza da un lato, cioè, rivela insieme, da un lato il disagio verso una laicizzazione che c'è stata, cioè l'anticlericalismo di piazza, appunto queste manifestazioni di cui dicevo prima, e contestualmente però soprattutto direi il disagio verso una laicizzazione che non c'è stata, in riferimento al giudizio, a mio modo di vedere più plausibile, famoso giudizio dato da Gramsci, sul fallimento dei laici in ordine al loro compito di educatori, di elaboratori della intellettualità e della coscienza morale del popolo-nazione. Tali carenze alla storiografia italiana segnano un grave ritardo rispetto al lavoro portato avanti, soprattutto negli ultimi anni, in altri paesi, soprattutto in Francia e in Belgio. Qui io cito semplicemente un'espressione, un saggio di un fascicolo del 1983 degli European Studies Review, un saggio di Raymond, tradotto in inglese, in cui si dice: "The study of anticlericalism lies squarely in the historical mainstream of which it is an essential component. Without it, our understanding of a whole chapter of modern European history would be severely compromised." E appunto in Francia e in Belgio studi sull'anticlericalismo e anche in Spagna si sono sviluppati in questi ultimi anni e si è arrivati anche a una parziale ricostruzione della geografia e della sociologia di questi movimenti. Alludo soprattutto a certi studi molto recenti francesi anche sui movimenti del libero pensiero. E per quel che riguarda la storia, la ricaduta negativa, l'impatto negativo di questa carenza sulle possibilità di una storia comparativa di questi fenomeni, sono da tenere presenti molti aspetti. Perché se è vero, naturalmente, che i movimenti anticlericali e laici dei singoli paesi hanno specifiche caratteristiche, è vero anche che vi è un periodo in Europa in cui, questo è noto, non faccio che ricordare e ribadire una constatazione molto nota, è un periodo in Europa in cui questi movimenti acquistano maggiore forza e combattitività, la seconda metà dell'Ottocento. Se è vero, per esempio, che l'anticlericalismo italiano trae una particolarità e una sua intensità specifica dal fatto che il potere temporale del Papa costituisce un ostacolo alla formazione statunitario, non c'è dubbio che nella seconda metà dell'Ottocento diversi paesi europei conoscono un'ondata di anticlericalismo e laicismo, sia sul piano dello Stato sia sul piano della società. Perché tramontata nella prima metà dell'Ottocento, perché è tramontata con la prima metà dell'Ottocento l'epoca romantica delle aspirazioni, dei sogni di conciliazione fra le religioni e nuovi ideali nati con la Rivoluzione francese, e è sottentrata una età di più aspre rotture e contrapposizioni. C'è un'altra ragione che sottolinea, il carattere negativo della carenza di questi studi italiani dal punto di vista della storia comparativa, e che vi sono stati indubbiamente contatti scambi fra ambienti anticlericali e laici dei vari paesi. Vi sono state associazioni internazionali di questi movimenti, sulla cui consistenza, sui cui canali, sulla cui efficacia c'è molto da indagare. E i gruppi che operavano all'interno di ciascun paese si sentivano parte di un più ampio schieramento che a livello europeo aveva caratteristiche analoghe e comunque combatteva gli stessi avversari. E la conferma dell'importanza di questi rapporti, questi contatti, si ritrova nella grande eco che fatti avvenuti nei confini di un paese avvenivano al di là di questi confini. Qui ci sono molti casi, vero, che hanno questa eco, dal caso Mortara nell'858, al caso Cohen nel 1864, agli avvenimenti del Kulturkampf in Germania, all'affare Dreyfus in Francia, soprattutto a partire dal 98, alla lotta fra la Repubblica francese laica, fra lo Stato e le Chiese in Francia all'inizio del secolo. Qui abbiamo, come noto, gli studi di De Cleva. Sull'esecuzione dell'anarchico Ferrer in Spagna nel 1909, altrettanti momenti in cui questi episodi ebbero una eco europea. Quali sono, nonostante tutto, le acquisizioni principali che noi possiamo sottolineare a proposito su questo, per quel che riguarda lo studio di queste tendenze di questo periodo? Uno degli argomenti più studiati è stata la politica ecclesiastica dello Stato italiano, a livello dell'opera legislativa, della prassi giurisprudenziale, eccetera. Quali sono le conclusioni di questi studi? Si possono così rapidissimamente riassumere. Ma è stato dimostrato che in diversi casi l'applicazione delle leggi, la prassi giurisprudenziale era assai diversa, più moderata, più favorevole alla Chiesa e al clero di quanto non fossero le leggi. Qui posso fare riferimento ai lavori di Margiotta Broglio, allo stesso lavoro di Ferrari, sia venuto sia presente. È stato dimostrato che fin da dopo il 70, qui è un'acquisizione che noi ricaviamo dalle pagine classiche dell'opera di Chabot, che fin da dopo il 70, e specie dopo il 71, all'interno sia della destra storica sia della sinistra, crescono le preoccupazioni per gli effetti, per l'ordine sociale, può provocare la legislazione laica, e queste preoccupazioni si andranno ampliando progressivamente fino a portare tra fine 800 e primo 900 al pratico abbandono da parte della classe dirigente italiana dei valori di laicità che poi il fascismo in Italia si incaricherà di cancellare per È stato dimostrato ancora, come si è accennato, che neanche la sinistra storica dopo il 76 si mostrò disposta ad accogliere le istanze di una laicizzazione più radicale che venivano da alcuni settori del mondo laico italiano. Dunque, in complesso si può dire che lo slancio nel senso della laicità della classe dirigente italiana è stato di breve durata. Altra acquisizione. La politica ecclesiastica dello Stato italiano, che già aveva proceduto con molta cautela sulla strada della laicizzazione, culminò in quella che Spadolini ha chiamato la conciliazione e la collaborazione silenziosa, esaltata dallo Spadolini perché si è omesso di sottolinearne i costi, sia in termini di accantonamento definitivo di qualsiasi istanza laicizzatrice e pertanto di una sconfitta parziale nei riguardi della Chiesa, sia in termini di strumentalizzazione e depauperamento del senso religioso e di rinvio di una sua ridefinizione su coordinate, direi, più rigorose e più moderne. Per quel che riguarda la politica scolastica, studiata in Italia soprattutto nei suoi aspetti legislativi e nel pensiero e nei dibattiti suscitati da figure di pedagogisti, ecco, questa politica fu per così dire la cartina di tornasole delle incertezze e ambiguità della classe dirigente italiana nel seguire una via di laicità. Qui Ecco, mi limito a alcune sporadiche osservazioni. Per quel che riguarda la questione, peraltro già piuttosto nota, dell'insegnamento religioso delle scuole, si può dire che se lo Stato non volle essere più teologo, abolizione delle facoltà di teologia, 1873, continuò a essere catechista, sempre opponendosi, cioè, alla formale abolizione del catechismo. Che uomini come De Santis, come Gabelli, come Villari, pur esaltatori di una religione laica, avvertivano la incapacità della scienza positiva di dare un qualche senso religioso, un senso ampio alla vita associata, di essere uno strumento di vera educazione per le nuove generazioni, che pur favorevoli a un insegnamento religioso che fosse espressione di una religione riformata, ecco l'aspirazione ad avere una religione riformata, magari in senso protestante, è compatibile con i principi civili su cui si fondava il nuovo Stato, si adattarono di fatto all'insegnamento catechistico, a lasciare le cose come stavano. Si trattava peraltro di un insegnamento religioso di assai mediocre qualità, che comprendeva la storia sacra, più ancora che il catechismo. Si può ancora osservare che la impossibilità di realizzare una soluzione radicale in senso laico non agevolò nel mondo cattolico la presa di coscienza dei caratteri vecchi e arretrati del tipo di insegnamento religioso che veniva impartito e che occorrerà arrivare agli inizi del nuovo secolo per avere nel mondo cattolico alcune voci dissonanti come quelle della Lega Democratica Nazionale e di Antonio Fogazzaro, entrambi per l'abolizione dell'insegnamento catechistico nelle scuole. C'è poi un altro aspetto, quello del rinnovamento in generale dell'insegnamento, per il quale invece sembra che la spinta laica, cioè della pedagogia positivistica, dei Gabelli, dei De Santis, dei Villari, degli Angiulli, eccetera, nella scuola elementare, abbia avuto una certa efficacia nel determinare, fra l'altro, con i nuovi programmi per la scuola elementare del 1888, un indirizzo che, in polemica con un insegnamento piuttosto verbalistico e dogmatico, quelle che Gabelli definiva le tenacissime tradizioni scolastiche e retoriche, mirava a introdurre un insegnamento piuttosto fondato sull'osservazione e sull'esperienza, che faceva più posto alle discipline scientifiche e tecniche, che prevedeva l'inserimento dell'insegnamento della ginnastica e del lavoro manuale. Altre acquisizioni. È esistito tra l'anticlericalismo e il laicismo della classe dirigente italiana e così le manifestazioni violente, volgari dell'anticlericalismo, un anticlericalismo popolare, medio, sostenuto dai ceti di piccola e media borghesia, artigiani, operai, intellettuali. È sbagliato, cioè, il quadro disegnato da certa storiografia, in particolare appunto lo Spadolini, un quadro in cui appare da un lato la lotta di questa classe dirigente, da un lato, dall'altro, le manifestazioni dell'anticlericalismo cosiddetto potrecchiano. E qui appunto, non mi soffermo, nella dimostrazione dell'esistenza di queste fasce minoritarie, certamente, ma consistenti, relativamente consistenti, cito soltanto, faccio riferimento soltanto a una parte consistente del movimento femminile, del movimento di emancipazione della donna, imbevuto di temi anticlericali e laici. Ancora, altra acquisizione che sottolinea un altro punto di distinzione, di differenza, con il quadro tracciato dalla storiografia di Spadolini, è che questo anticlericalismo medio, popolare, è persistito, non viene progressivamente meno con l'inizio del secolo, con il primo decennio del secolo. Man mano che già a partire dagli anni 70, ma poi in modo progressivamente accelerato, la classe dirigente, la destra e la sinistra, abbandonano, come si è detto, di fatto anticlericalismo e laicismo, questi entrano a far parte della fisionomia delle correnti di opposizione, repubblicani, radicali e socialisti, acquistando anzi un carattere più radicale, sia perché vengono inseriti in progetti di più profonda trasformazione della società italiana, sia perché diventano anche strumento di lotta contro il governo, sia perché tra la fine degli anni 90, tra gli anni 90 e il primo Novecento, l'anticlericalismo diventa un movimento non solo di lotta contro la Chiesa, ma anche di lotta, specie da parte socialista, contro il movimento cattolico organizzato, su un piano quindi di concorrenza. La conseguenza di questa situazione, di questo fenomeno, è la divaricazione degli obiettivi della direzione laica, della classe dirigente italiana da un lato, dei gruppi di opposizione dall'altro, che divise di fatto il fronte potenzialmente laico. E qui si può misurare la differenza con la situazione francese, dove le forze repubblicane fra gli ultimi decenni dell'Ottocento e il Novecento furono relativamente compatte, prima nel portare avanti la legislazione laica degli anni Ottanta, poi nel prendere posizione, soprattutto a partire dal 98-99, dopo incertezze, nell'affaire Dreyfus, poi infine nell'arrivare, nel giungere alla separazione fra Stato e Chiesa. In Italia, situazione diversa. Avrei voluto accennarlo, che questa carenza degli studi italiani sull'anticlericalismo e sul laicismo ha anche delle eccezioni, mostra anche delle eccezioni, cioè negli ultimi anni vi sono stati degli studi, cito appunto i lavori, i libri di Cleva, di Turi, di Pivato, di altri, un certo numero di studi sull'anticlericalismo socialista. E anche qui, senza volere compiere neanche una rapida rassegna ovviamente di questi studi, vorrei limitarmi ad alcune principali osservazioni. Primo è che nell'ambito della eclettica ideologia del movimento socialista, della molteplicità delle sue matrici culturali, differenziate appaiono anche le posizioni che si manifestano sia sul piano teorico, sia soprattutto sul piano della propaganda, dell'immagine, nei riguardi della religione e della Chiesa. Fra questi, alcuni studiosi in particolare hanno sottolineato lo spazio importante, anzi addirittura preminente, che avrebbe avuto la propaganda fra i contadini del cosiddetto evangelismo socialista, cioè di una forma di anticlericalismo e di anticattolicesimo che si traduce in un messaggio in cui il socialismo si manifesta come una nuova fede religiosa che realizza i nuclei più autentici del Vangelo del cristianesimo. Credo che la ricerca su questo indirizzo, su questa propaganda, debba essere ancora avviata. Una ricerca recentissima, a livello di una tesi di laurea, su un settimanale pubblicato a Terni e a Roma, una giovane laureata che ha discusso una tesi con me nella seconda università di Roma, Tor Vergata, una tesi su il seme quindicinale di propaganda socialista per i contadini, stampato a Terni e poi a Roma dal settembre 1901 al 1915, diretto da Francesco Paoloni, diffuso nel Lazio, Umbria e in genere Italia centrale. Ecco, questa ricerca ha confermato la ricchezza di motivi di questo evangelismo socialista, che muta ampiamente dai moduli cristiani, linguaggio, ritualità. È un periodico che stampava 30.000 copie, che arrivavano a 100-200.000 in particolari occasioni. Anche dal punto di vista dell'atteggiamento, questa è un'altra osservazione che si può fare, che anche dal punto di vista dell'atteggiamento verso la religione, verso la Chiesa, nel movimento socialista vi è una certa continuità di motivi rispetto alla tradizione laica, liberale e democratica precedente, non solo, come è noto, per l'indirizzo positivistico e materialistico, ma anche per esempio per l'etica del lavoro, del self-help, dell'elevamento attraverso l'istruzione. o per il misticismo mazziniano e soprattutto garibaldino. Ecco, in questa situazione degli studi e dei risultati, quali sono dunque le maggiori lacune, le principali direzioni di ricerca che si possono indicare, oltre a quelle già implicitamente indicate? Ecco, innanzitutto mancano, per quel che riguarda l'Italia, appaiono necessari lavori di ricerca complessiva sull'anticlericalismo e sul laicismo, in particolare nel periodo della sinistra e su quello del primo quindicennio del secolo. Inoltre sono necessari studi locali, studi regionali sui movimenti anticlericali, su quelli del libero pensiero, che mancano praticamente del tutto. E ancora, sia a livello locale sia a livello nazionale, studi sull'editoria popolare, una miriade di editori, di piccoli editori, sui loro canali di diffusione, la reale penetrazione, l'eco, i periodici pedagogici, i congressi e le iniziative degli insegnanti primari e secondari, i manuali e i libri di testo. Ci sono, da questo punto di vista, dei lavori esemplari di storia dell'editoria. Cito fra gli altri le edizioni Nerbini, fra il 1890, editore socialista, fra il 1890, e anche editore di testi evangelico-socialisti. Le edizioni Nerbini 1896-1921, a cura di Gianfranco Tortorelli, eccetera. Questi studi dovrebbero portare a un approfondimento della sociologia dell'anticlericalismo e del laicismo, come si diceva prima, e anche a una ricostruzione della sua geografia, che si può anche abbozzare. Qui non mi soffermo su questo. Il Piemonte, Torino è stata forse la città più positivista d'Italia, definizione recente di Norberto Bobbio, la regione del grande scontro con la Chiesa per la laicizzazione dello Stato, la regione in cui si diffonde ampiamente il darwinismo, De Filippi, Lessona, la regione in cui abbiamo le società operarie di mutuo soccorso dirette dei liberali, la regione di Ausonio Franchi, Mole, Scott, olandese ma che ha studiato in Germania, che ha insegnato in Germania, che insegna a Torino, la diffusione dell'etica laica, eccetera, poi la Lombardia, la Toscana, l'Emilia Romagna. Abbiamo cioè delle indicazioni per ciascuna di queste regioni, ma non abbiamo una ricostruzione organica della geografia di queste tendenze. Poi altri, e qui cito molto rapidamente, altri tipi di fonti sono quasi del tutto da studiare: il teatro anticlericale, il romanzo anticlericale, la letteratura storica popolare anticlericale, le canzoni, le caricature, in genere l'iconografia. Basti pensare all'importanza che questa iconografia riveste, per esempio, per una celebrazione operaia e socialista come quella del primo maggio. È noto che nella pubblicazione miscellanea La vita religiosa a Roma, intorno al 1870, Ricerche di storia religiosa a cura di padre Drulers e padre Martina, eccetera, pubblicata all'Università Gregoriana nel 1971, c'è un saggio in cui sono state studiate le lapidi di radicali e liberi pensatori in alcuni cimiteri del Lazio. Ecco, le fonti per portare avanti la ricerca in queste direzioni sono dunque fonti a stampa, sono fonti figurate, sono fonti documentarie, ma probabilmente anche fonti dell'altra parte, cioè fonti ecclesiastiche. Qui abbiamo degli studi sulla relazione ad Elimina, anche da questo punto di vista, ma probabilmente più ricche da questo punto di vista sono le visite pastorali. Quali sono le principali fonti culturali dell'anticlericalismo e del laicismo italiane? Ecco, sono naturalmente molteplici e complesse, come emerge dagli studi che sono stati fin qui compiuti. Tralascio le fonti italiane. Per quel che riguarda le fonti, l'indicazione delle fonti italiane, per quel che riguarda le fonti straniere, ecco, credo che si possano distinguere grosso modo tre fasi, tre periodi. Cioè una fase che va dai primi decenni dell'Ottocento e fino alla metà degli anni Sessanta, ai primi anni Sessanta. Ecco, è una fase in cui noi abbiamo una influenza, appare una influenza di alcuni autori dell'empirismo e dell'illuminismo inglese. Tutti gli empiristi inglesi, alcuni illuministi inglesi, e poi un'influenza del positivismo francese, positivismo sociale francese, Comte e Saint-Simon, oltre che di tendenze liberali e democratiche francese, libero pensatrici francesi, Jouffroy, Michelet, Quinet, eccetera. Ma è presente anche l'idealismo tedesco, è presente anche Strauss, sono presenti Strauss e Feuerbach, soprattutto direi nella traduzione diffusa in Italia fatta della vita di Gesù di Strauss fatta da Emil Littré, e vi è anche, sia pure sommariamente, una certa eco, devo dire molto, credo molto superficiale, di certa critica biblica tedesca, Eichhorn, Herbst e alcuni altri. Poi abbiamo la critica biblica razionalistica tedesca, forse conosciuta direttamente, spesso orecchiata. Una seconda fase che va dalla metà circa degli anni 60 agli anni 80, nella quale si può sottolineare innanzitutto la penetrazione in Italia di questo flusso di letteratura di origine anglosassone, smilesiana o self-helpista. Poi un'ondata di hegelismo universitario legato al rinnovamento del personale docente, un fatto noto in alcune università, soprattutto Napoli, Bologna o anche Torino. Successivamente l'affermarsi di una decisa corrente positivistica prima di derivazione inglese e francese, e cioè darwinismo e poi l'eco dell'opera della traduzione in Italia della vita di Gesù di Renan, studiata appunto dal giovane laureando Paolo Mancinelli, ma soprattutto di una corrente positivistica e materialistica di matrice tedesca, e soprattutto autori come Büchner, Mayer, Vogt, Haeckel e alcuni altri, anche tradotti. Büchner, Forza e Materia, viene tradotto, mi pare, nel 1869. È data da questi anni una influenza più generale, studiata, nota, della cultura tedesca e del positivismo tedesco in Italia, nel campo della filosofia, nel campo dell'economia, il germanesimo economico, nel campo giuridico, nel campo pedagogico, eccetera. È all'interno di questa ammirazione per la Germania che si individua, a partire dal 1866, cioè dopo Sadova, e poi dopo il 70, una sorta di modello prussiano e di modello tedesco, di cui spero di poter dire due parole, ma altrimenti sarà la discussione a completare, spero, il quadro. Ecco, c'è poi una terza fase che va grosso modo dagli anni 80 al nuovo secolo, in cui continuano a prevalere grosso modo le tendenze che si sono dette, ma in cui il modello prussiano-tedesco viene progressivamente sostituito dal modello francese, cioè dal modello della Francia laica, della Francia che è passata da un regime che appariva filomonarchico e filoclericale a un regime invece laico. Ecco, sono gli stessi anni nei quali contestualmente, al lento, al progressivo accantonamento degli stessi gruppi della sinistra, degli stessi gruppi della sinistra ai cattolici, i primi tentativi di intesa con i cattolici sul piano elettorale e amministrativo negli anni dopo il 76, e l'Italia stipula poi con gli imperi centrali un'alleanza, la triplice, che anche fini interni conservatori, si accentua la divaricazione sul piano dell'anticlericalismo e della laicità tra forze governative, diciamo, e forze di opposizione. Ecco, vorrei dire soltanto qualcosa a proposito di questa cultura positivistica italiana. Sono qui da fare alcune osservazioni che sono state avanzate nell'ambito del rinnovato interesse, dei nuovi più attenti studi di cui da una quindicina di anni lo stesso positivismo è oggetto. Cioè l'interesse e la valorizzazione del positivismo non hanno niente a che fare con la rivalutazione della filosofia positivistica, semmai con la valorizzazione di un metodo positivistico, rigoroso, scientifico, diciamo applicato alle diverse discipline. Per quel che riguarda le correnti anticlericali e laiche, è certamente vero che in esse a un certo punto si diffuse e fu esaltata in senso antireligioso una sorta di fede scientista, di metafisica positivistica, espressa magari in forme rozze. Ma non è vero che fu sempre così, se si analizza soprattutto appunto una cultura positivistica media. Non è vero perché in molti ambienti, in molti settori, il positivismo era considerato semplicemente un mezzo di elevazione morale, di crescita culturale, di progresso civile, che si univa a un agnosticismo sul piano religioso. Questo. Seconda osservazione. Nell'ambito di questi studi recenti, appunto, sul positivismo, si è sottolineata l'utilità di una prospettiva di ricerca che verifichi la probabile grande persistenza al di là dei primi anni del Novecento, cioè al di là di questo periodo a partire dal quale, secondo precedenti studi, la cultura positivistica sarebbe bruscamente, brutalmente declinante, che verifichi al di là della stessa reazione idealistica che, diciamo, ha riguardato soprattutto settori, aspetti dell'alta cultura, la persistenza, dicevo, di temi, di tradizioni, di esperienze, di mentalità propri del positivismo. Cioè, verosimilmente, la reazione antipositivistica sul piano dell'alta cultura non si è affatto tradotta automaticamente in un annullamento, in un annichilimento di questa cultura positivistica a livello medio. Ecco, che cos'è dunque questo modello prussiano-tedesco che si ritrova fra la metà degli anni 60, gli anni 70 e l'Ottocento nel mondo laico italiano, modello che naturalmente, di cui naturalmente sappiamo che ha parlato Federico Sciabboni in alcuni capitoli dell'opera sulla politica estera dell'Italia dal 1870 al 1915, soprattutto nel capitolo secondo sull'idea di Roma, nel secondo paragrafo, eccetera. È un modello che in realtà acquista contorni, come si diceva, dopo il 66, dopo la vittoria della Prussia sull'Austria, e che si traduce in quelli che appaiono a larghi settori dell'opinione pubblica italiana come gli ideali cui si ispira questo paese, cioè la scienza positiva e la produzione economica, soprattutto la produzione industriale, cui consegue una forza politica e militare in grado di impartire a tutti gli altri la cosiddetta lezione della realtà, la lezione della realtà. Ora, questo modello non solo, come ha mostrato Chabot, condiziona in una certa misura l'opinione italiana sul piano degli orientamenti di politica estera, delle tendenze alle alleanze internazionali o su quello degli ideali di nazionalità, Crispi, eccetera. Non solo esercita un'influenza sulla classe dirigente, sulla classe politica italiana di quegli anni, ma è avvertito nel mondo laico di quegli anni, e non solo da grandi scrittori e politici, ma nella cultura media, come un modello ispirato all'ideale della scienza e che si traduce in un ordinamento scolastico fondato su precisi criteri, che realizza una civiltà laica in contrapposizione a quella che un periodico pedagogico definisce l'imbelle educazione pretesca. Questo riferimento in termini imbelle non è casuale, perché negli anni in cui la lotta per il raggiungimento degli obiettivi di unità e di indipendenza è ancora in corso, si stabilisce un nesso stretto fra istruzione, educazione, esercito e forza militare. Ordinamento scolastico prussiano che è probabilmente conosciuto, verosimilmente conosciuto, attraverso una abbastanza ricca letteratura, soprattutto francese, di cui si trova traccia nelle biblioteche italiane. Ho fatto un rapido sondaggio, mi pare di poterlo dire. Ed è in questa fase, appunto, che vengono esaltati il maestro di scuola prussiano, la scienza che ha vinto la Francia, che poté svilupparsi solo in Germania perché libera dal giogo pontificio, la Germania di Bismarck è patria del pensiero. E qui appunto è un insegnamento, è un modello di insegnamento fondato sulla lezione delle cose, sulle osservazioni scientifiche, sull'istruzione obbligatoria, sullo spazio dato soprattutto all'istruzione professionale, tecnico-professionale, sull'educazione fisica, il corpo, la ginnastica, Jan, la legge sull'obbligo della ginnastica nelle scuole italiane elementari del 1878, ma ancora la diffusione delle biblioteche popolari, la Germania vuol dire, la Prussia e la Germania vogliono dire anche questo, e la propaganda igienistica, molti almanacchi igienistici italiani, Mantegazza, eccetera, fanno riferimento alla Germania. Tuttavia ci sono critiche nel mondo laico a questo modello prussiano. Si sottolinea in alcuni ambienti che il sistema educativo prussiano è un sistema estremamente, cioè sembra che rispetto a questo modello prussiano si colgano, diciamo, positivamente, si tenda a recepire più gli aspetti, alcuni aspetti particolari che lo spirito, che le, diciamo, il criterio ispiratore che viene individuato appunto in una spinta autoritaria, in un sistema autoritario costruito in funzione di uno Stato forte, capace anche per questi gruppi di costituire dopo il 70 un pericolo per gli altri Stati. E qui Pasquale Villari, ma anche a livello di cultura media. E ancora si sottolinea che questo sistema attribuisce un ruolo fondamentale alla Chiesa, cioè al clero luterano. Pone l'istruzione e l'educazione sotto la direzione e il controllo non solo delle autorità statali, ma anche di quelle ecclesiastiche. C'è una simpatia verso la Germania protestante, che è una simpatia certo verso il paese che è patria della riforma, ma è soprattutto una simpatia verso il paese che garantisce, diciamo, un pluralismo confessionale. Ecco, tutto, qui rinvio a tutte le discussioni sulla legge per l'abolizione delle facoltà di teologia. Ai fautori del mantenimento di questo insegnamento, diciamo, i fautori invece della sua abolizione replicano che non si può addurre l'esempio della Germania, perché in Germania esiste un pluralismo confessionale e dunque le facoltà di teologia costituiscono un vivaio di discussione, di incontri, di scontri, sono un elemento di accrescimento del livello della cultura teologica rispetto alla cultura laica, a differenza di quello che avverrebbe in Italia, dove invece la cultura teologica cattolica avrebbe il monopolio. Ecco, e quindi simpatie per il movimento dei vecchi cattolici, per Döllinger, non solo, diciamo, in grossi personaggi come Bonghi, ma a livello appunto anche qui di fasce intermedie. Ecco, queste prese di distanza critiche dal modello prussiano tedesco da parte dei gruppi laici italiani di cui si è detto fanno intendere le ragioni di analoghe prese di distanza critiche dal Kulturkampf anche in relazione a una sua possibile estensione in Italia. Qui dico rapidamente, certo è vero che negli anni dopo il 70 c'è una attenzione e anche una diffusa, generica simpatia da parte di molti settori, di molti gruppi laici radicali verso la politica bismarckiana. Sono gli anni in cui dopo la legge delle guarentigie, dopo il varo della legge delle guarentigie, le correnti, diciamo, radicali dell'anticlericalismo, del laicismo, del libero pensiero sono all'attacco perché appunto tendono o a sostituire questa legge delle guarentigie o comunque a portare avanti la laicizzazione dello Stato italiano. Ma è anche vero però che contestualmente a questa generica simpatia che si esprime nella stampa, soprattutto la riforma, nei meetings democratici, eccetera, è anche vero però che contestualmente da parte degli esponenti anche più radicali dell'opinione laica italiana si sottolineava quella nella loro ottica costituiva il limite fondamentale della politica bismarckiana, cioè il considerare la Chiesa come un'istituzione giuridica su cui lo Stato dovesse avere un diritto dovere di intervento e di controllo, e manifestavano quindi in questo modo quello che era un orientamento diffuso e sostanzialmente maggioritario, specie nei gruppi più radicali del libero pensiero, la tendenza cioè a realizzare non un sistema di neo-giurisdizionalismo, ma un sistema di radicale separazione fra Stato e Chiesa. L'unico è, diciamo, a conferma di questo fenomeno, una constatazione. Non c'è, a partire dal 1871, negli anni dopo il 70, non c'è un progetto di legge che muova dai gruppi laici più radicali che vada nella direzione, minimamente nella direzione, delle leggi di maggio del 73 o della loro replica nel 74 e nel 75. Anzi, emergono anche da personaggi come Pasquale Stanislao Mancini delle nette prese di distanza, qui ho anche una citazione, posso fare, l'unico progetto di legge che in qualche modo potrebbe, ma erroneamente, essere considerato analogo a quelli hanno varato in Germania, e non muove dalle file dei liberi pensatori, muove dalle file dei neo-giurisdizionalisti, è un progetto del deputato Pellatis, peraltro molto moderato, che si proponeva particolarmente di stabilire norme riguardanti i giovani che volessero entrare in seminario prima del loro ingresso, il compimento dei 21 anni di età e il conseguimento della licenza liceale negli istituti statali o parificati. Questo, e non ci sono voci, a parte così, forse l'unica voce è quella dell'unico esaltatore a livello di alta cultura delle leggi di maggio e Padelletti, insomma, non mi pare ce ne siano altri. Insomma, direi, per concludere, se la politica ecclesiastica di Bismarck a partire dal 72, se l'eco suscitata in Italia dal Kulturkampf contribuirono probabilmente in qualche misura a suscitare e a sorreggere l'offensiva in senso laico delle forze di opposizione, appare peraltro evidente che non ne influenzarono veramente i contenuti e le caratteristiche. A conferma cioè dell'esistenza di un largo tessuto di reciproci rapporti e di reciproche influenze nei diversi paesi europei fra le correnti anticlericali e in lotta contro la Chiesa nell'Ottocento, tessuto in buona parte da indagare ulteriormente, ma anche della grande autonomia e peculiarità delle correnti anticlericali e laiche dei singoli paesi e in particolar modo, per ovvie ragioni storiche, di quelle italiane. Grazie. Grazie Verucci per questa tua relazione a vasto respiro, sia cronologico, sia tematico, sia direi di tagli di questioni che si sono intrecciate, che predispongono, mi pare, un ottimo terreno di incontro, anche per il fatto che hanno ripreso attraverso un'astuzia della ragione o della storia non voluta alcuni dei temi che erano stati trattati precedentemente, non in quanto ripetizione ma in quanto approfondimento, e quindi si colloca, diciamo, su una linea, su un solco di discussione che avevamo già in parte iniziato e che quindi può, credo, proseguire con grande naturalezza e facilità. Chiedo soltanto a Lille se ritiene che gli ascoltatori, i partecipanti di lingua tedesca del seminario ritengano opportuno una ripresa di qualche spunto o no? No, perché c'è stato questo bellissimo riassunto. Va bene, interpretiamo il silenzio come assenso, e quindi possiamo passare direttamente, come avevo detto, alla discussione. Faremo l'intervallo soltanto dopo la discussione. No, prego. Io non avrei niente in contrario, vogliamo sentire solo così due o tre interventi e poi magari diamo la parola a Varniere e poi le rimettiamo in discussione insieme? Va bene, perché ho visto che c'era qualcuno che sembrava avesse una certa premura di intervenire, per esempio Stadler. Antiklerikal heißt ja, man ist gezielt gegen die Klerikalen, gegen die Geistlichkeit und daneben kann man als Materialist einfach vollkommen indifferent sein und sich um den Klerus überhaupt nicht interessieren und bekümmern. Dann ist man nämlich kein Antiklerikaler. Also ich kenne zufälligerweise, ich habe mal zufälligerweise den Briefwechsel Marx-Engels auf den Kulturkampf hindurch gelesen. Von Antiklerikalismus findet man da kaum etwas, ganz einfach, weil diese Thematik die beiden Herren überhaupt nicht interessierte. Sie betrachten diesen Kulturkampf ungefähr so, wie ein Spaziergänger einen Ameisenhaufen betrachtet. Etwas ganz Merkwürdiges, dass es Leute gibt, die sich für so etwas überhaupt aufregen und interessieren können. Also ich möchte hier eine möglichst klare Definition, wo ist Antiklerikalismus und wo ist einfach Gleichgültigkeit gegenüber jedem Religiösen. Das möchte ich etwas genauer umgrenzt haben. Und ich weiß nicht, ob Sie diese Persönlichkeiten genau daraufhin untersucht haben, ob sie sich wirklich gezielt gegen Geistlichkeit geäußert haben. Das ist meine Frage. Danke. Se vuole fare questo. La domanda del professor Stadler era riguardo alle personalità che lei ha citato, Büchner, Haeckel, Meyer e Vogt, se in effetti queste personalità possono dirsi anticlericali, nel senso che si dirigono contro l'ambiente ecclesiastico, clericale, contro insomma, un ambiente spirituale, o invece insomma, personaggi che hanno una certa indifferenza verso l'ambiente clericale, e in che modo si pongono, insomma, tra questi due, insomma, atteggiamenti, se indifferenti o anticlericali, perché c'è una diversità tra... Padre Martino aveva chiesto quattro osservazioni piuttosto rapide. Erstens, c'è in Italia, non so se in Germania, una grande confusione sulla parola laico, per cui, per essere concreti, anche se cadono un po' nel ridicolo, in Italia Craxi è laico e Andreotti non lo è. E qui una confusione enorme che sarebbe bene evitare, ma purtroppo sui giornali si parla di partiti laici, eccetera, eccetera. Zweitens, si potrebbe fare una graduatoria dell'anticlericalismo nei vari paesi, con tutti i rischi connessi della genericità, della superficialità. Io avanzo queste, però c'è il vantaggio che allarghiamo il quadro, e questo credo che sia un grande vantaggio. Io propongo personalmente, con tutti gli sbagli, poi rifiutatela, questa graduatoria. Al primo posto del campionato del mondo. Sì, mondiale. Al primo posto dell'anticlericalismo, Messico, Querétaro 1917. La Costituzione, a mio avviso, più anticlericale che io abbia incontrato. Secondo, Spagna, sembra strano, ma la metterei al secondo posto nell'anticlericalismo, 1936 e anche prima. Terzo, Francia, compismo, una parola che è divenuta significativa. Quarto, Germania, e quinto, buon ultima, l'Italia. Sono tutti gli adattamenti che si possono fare, si può discutere all'infinito. Drittens, le caricature, l'importanza delle caricature. Alla Gregoriana abbiamo fatto una tesi di laurea sulle caricature anticlericali in Germania e le ho utilizzate anche nella seconda edizione italiana di Auvergne. Il quarto, c'è l'anticlericalismo della legislazione, va bene, c'è l'anticlericalismo delle manifestazioni di piazza, ma c'è quell'anticlericalismo come stato d'animo diffuso, per cui insomma un cattolico praticante e non va avanti nella carriera. Oggi è cambiata completamente, va bene, ma riflettiamo, 100 anni fa un prefetto italiano, se voleva fare Pasqua, fare la comunione a Pasqua, doveva farla di nascosto, andare chissà dove, eccetera, e via di questo passo. Gli esempi si potrebbero moltiplicare. Grazie. Vorrei fare una rapida sintesi. Einmal die terminologische Konfusion zum Thema, also zum Begriff laizistisch, dann eine Stufenfolge der antiklerikalen Länder von Mexiko über Spanien, Frankreich, Deutschland und schließlich Italien. Drittens, dass es eben, dass die antiklerikalen Karikaturen weit verbreitet waren, auch in der Legislation und dass das persönliche Leben davon betroffen sein konnte. Professor Herrweiß. Ich kann auch laut reden, es funktioniert schon. Ich habe nur zwei Bemerkungen oder zwei Fragen. Das erste, ich weiß nicht, haben Sie auch das Buch erwähnt, ich weiß nicht den genauen Titel, das von der, in der Reihe erschienen ist, diese Kongressberichte der Universität, Katholischen Universität von Mailand über, ich glaube es heißt Società e Cultura nell'età Umbertina, und darin ist doch dieser sehr gute Artikel von Eugenio Garin, ich glaube der Titel heißt Positivismo come metodo o come concezione del mondo, und jedenfalls für mich, der ich also mich da eingearbeitet habe, war das eine sehr gute Einführung auch zu der Frage, wie weit unter der Linken, der Regierung der Linken, wirklich der Positivismus zur Religion geworden ist und eine sehr antiklerikale Bedeutung hatte. Und also war ein Kampfmittel, eine Antireligion, der Positivismus. Ja, das dazu, ich habe noch eine Reihe Bücher aufgeschrieben über Dretzam und so weiter, aber das lasse ich jetzt. Zum deutschen Modell. Nur eine Bemerkung nochmal, ich greife hier jetzt nur den Punkt heraus, die Altkatholiken, da ist mir selber etwas aufgefallen, was immerhin sehr interessant ist, wie in Italien doch deutsche Vorgänge total missverstanden worden sind. Die Aufmerksamkeit auf die Altkatholiken und auf Döllinger, sicher, Bongi hat es richtig gesehen, er sah, dass es um eine Erneuerung der Kirche ging. Aber wenn ich an die Adresse der römischen Professoren der römischen Universität denke oder in Briefe aus diesem Umfeld, die an Döllinger gerichtet worden sind, oder auch an Aufschriften auf den Mauern von Frascati, wo es heißt Viva Döllinger, dann wurde da Döllinger bezeichnet als der neue Luther, sogar als der neue Moltke, kommt mal vor, als im Begriff des Nationalstaates. Und das waren vor allem die Leute der Linke, die haben also Döllinger total verkehrt gesehen, und Döllinger hat es auch einmal bemerkt, die Italiener verstehen das nicht. Ja, ich lasse das so weit. Vabbè, ha chiesto se lei ha tenuto conto o ha citato quel libro, insomma, di cui Garen, che secondo il professore era... che ha trovato come ottima introduzione, un'introduzione molto valida per il positivismo sotto la sinistra come antireligione. Una nuova religione. E poi per quanto riguarda il modello tedesco, gli equivoci che ci sono stati da parte della sinistra sui vecchi cattolici, sui altcattolici, mentre Bonghi aveva capito che si trattava di un rinnovamento della Chiesa, gran parte della sinistra ha equivocato su Döllinger vedendolo come un nuovo Lutero e insomma capendo male, insomma, comprendendo male le cose. Professor Lill ha chiesto di fare una domanda. Due brevi domande. Prima, qual è stato il ruolo svolto dopo il 60-70 dalle piccole comunità non cattoliche in Italia, soprattutto dalla Chiesa Valdese che ora si allargava anche a Roma e di altre grandi città? La seconda domanda, in quel clima spirituale che lei ha spiegato, a mio avviso molto bene, come si spiega il fatto che quasi nessuno di quei uomini che esaltarono i valori della Prussia, del mondo protestante, eccetera, si è poi convertito al protestantismo, che ora era libero, circolava e aveva le sue chiese e comunità in tutte le città italiane? Also zwei kurze Fragen. Erstens, welche Rolle haben in jenen Auseinandersetzungen die nicht-katholischen religiösen Gemeinschaften gespielt, die zwar sehr begrenzt sind, die es aber doch gab, Waldenser, und die ja seit 1860-70 frei in ganz Italien zirkulieren konnten und auch in Rom selbst ihre Gemeindehäuser hatten? Und zweitens, in jenem Klima, welches hier so klar geschildert ist, einer zeitweiligen Bewunderung oder zumindest einer Hochschätzung protestantischer und preußischer Modelle, wie erklärt man sich, dass fast niemand von den Leuten, die in dieser Richtung gesprochen und geschrieben haben, zum Protestantismus konvertiert hat, der doch inzwischen in ganz Italien offen anerkannt war? Zwei ganz kurze Fragen, Ihre Information dienend. Sie hatten den Zusammenhang angesprochen zwischen Parteibildung und Antiklerikalismus. Könnte man das bitte etwas vertiefen? Die zweite Frage, gibt es Stereotypen in der antiklerikalen Darstellung? Die Frage der Karikaturen ist bereits gestellt worden. Stereotypen, wie sieht man die Gegenseite? Hat man gewisse formelle, also gewisse Vorurteile, die eingebracht werden? Und welche Art sind diese? Due domande. L'uno riguardo la formazione dei partiti e l'anticlericalismo, insomma sulla connessione di questi della formazione dei partiti e l'anticlericalismo, e l'altro invece sul problema degli stereotipi che lei, a cui lei ha accennato per quanto riguarda le caricature, e se insomma ci sono nell'anticlericalismo dei preconcetti che danno vita a questi stereotipi. Prego, immagini. Voglio fare due domande abbastanza così rapide. La prima era questa, cioè il perché della debolezza del positivismo in Italia, che mi sembra che uno dei tratti, diciamo, centrali del professore fosse la differenziazione che separava la laicizzazione in Italia, la diffusione dei correnti laiche in Italia, per questa debolezza di un positivismo per altri versi ricco di suggestioni, di concretizzazioni anche varie. Il perché, se non era dovuto al sopravvivere in Italia, che pure era stata nel Rinascimento una delle grandi patrie della scienza, del metodo scientifico, di una cultura al contrario retorica, classicistica, declamatoria. E la seconda domanda è questa: se quindi, diciamo, la mancata realizzazione di una cultura in Italia è normalmente nella storiografia proposta come causata da un'alleanza di fondo tra per motivi conservativi contro il socialismo, da una certa parte anche della sinistra, che tutto sommato faceva parte della borghesia. Se questo invece non sia dovuto a una debolezza interna, culturale e delle stesse correnti laiche. Zwei Fragen. Woher resultiert die Schwäche des Positivismus in Italien? Erstens. Und zweitens, ist die Tatsache, dass es nicht zu einer vollständigen Laisierung gekommen ist, auf die Schwäche der Sinistra selbst zurückzuführen? Sì. Una considerazione piuttosto di riflesso, semmai consentito. In aggiunta alla brillante relazione del professor Verucci, ma anche per sollecitazioni così che sono venute precedentemente, cioè il ruolo giocato, finora non se ne è parlato, da un altro modello tedesco, questa volta quello cattolico, quello del centro, negli ambienti del cattolicesimo intransigente prima, non solo, e poi, ma questa è una questione successiva, nella parte più, termine improprio, più progressiva di questo, cioè quello in futuro popolare, no? Soprattutto del centro nei confronti del Kulturkampf. C'è quasi un'esagerata, per modo di dire, ecco perché è presentissima nella letteratura di questo periodo, esagerata infatuazione per il centro in lotta col Kulturkampf. È importantissimo, è un dato molto grosso in Italia. A fine secolo l'ammirazione è addirittura generale in ambiente cattolico, nella pubblicistica. Penso a un padre, a elementi molto diversi, no? Un padre Pavis e cioè un Vercesi. Pensiamo poi a un Meda che guarda addirittura al centro come al modello di una impossibile condizione, visto che non l'ha potuta fare, fino a teorizzare nel 1904-5, in coincidenza con gli accordi elettorali di quel periodo, addirittura un centro italiano. L'espressione più clamorosa poi è quella del Cardinal Ferrari, che va a un Katholikentag, mi pare nel 1903, e proclama un motto che in Italia è diffusissimo, già quello di Germania Docet. Ecco, allora mi sembrava importante, così mi permettevo di aggiungere questo dato, l'eredità di un ampio movimento che verrà poi raccolto da personalità a noi più vicine, a noi più note, come Luigi Sturzo, compagno di studio di Sonnenschein, che matura da lui una conoscenza da vicino, anche se in ricordo del Kulturkampf. Ecco, da allora in poi la fama del centro, io ne ho fatto l'oggetto della mia tesi di dottorato, spero di poter fornire presto anche qualcosa, diventa un mito. La fama passa ad essere mito, un mito che dura quando la vita di questi uomini si trascina in qualche modo con loro, arriva fino all'ultimo De Gasperi, quello dei governi di questo dopoguerra, che guarda moltissimo al centro e pervade addirittura nella costituente italiana la speculazione di uomini tra loro diversi, come Mortati, come Tosato, come Guarino, lo stesso Latina, al punto da farmi azzardare che a fianco al modello francese per i cattolici italiani esiste un forte modello tedesco. Ecco, quanto poi questi abbiano saputo interpretare o no il centro, non lo so, però la cosa è massiccia. Ecco, volevo portare questo contributo. Sono scusi, per senso. Also, sì, super, sì. Ja, am Beispiel Zentrum, das ist sehr in Italien studiert und ist praktisch immer gesehen als ein Muster für italienische mögliche Demokratie. Schon von Anfang des Jahrhunderts und dann wird mit Sturzo, mit De Gasperi und auch in italienische Konstituente so wichtig zu sein, fast ein Mythos, die dauert wie das Leben dieser Männer. Die haben immer ein Zentrum gegen Kulturkampf, vielleicht etwas übertrieben, aber immer wie ein Muster für italienischen Katholizismus in der Politik gesehen. Und vielleicht nicht nur ein französisches Beispiel, also auch ein deutsches Beispiel für die italienische Cattolicismus in dieses Jahrhundert zum Vergleich mit Kulturkampf. Grazie, Schiera. Dass der Kooperativismus orientiert sich am deutschen Modell. Stiamo arrivando al punto di sintesi, alla capacità di sintesi. La prossima settimana la ridurremo, credo, a una giornata. Ah, si vede. Io chiuderei gli interventi sulla relazione di Verucci per ora, nel senso che dopo la relazione di Vanier si riapre la discussione anche eventualmente su quella di Verucci. Direi a Verucci di dare una breve risposta a questo primo nucleo di domande, poi farei un breve intervallo e poi sentiamo la relazione di Vanier e rimettiamo tutto in discussione. Se siete d'accordo di procedere in questo modo, se non siete d'accordo procediamo lo stesso, io mi impongo per autorità. Sì, ma appunto, sì, io risponderò molto, sì, molto brevemente, soprattutto ad alcune richieste di chiarimento, seguendo se possibile l'ordine in cui queste richieste sono state avanzate. A proposito del chiarimento sollecitato dal professor Stadler a proposito del fatto che alcune delle personalità citate, scienziati, Vogt, Moleschott, possono essere definiti più dei positivisti, materialisti, agnostici che non degli anticlericali. Ecco, rispondo dicendo che questo è certamente vero, che tuttavia lo sforzo dei gruppi anticlericali, laici, che tendono a diffondere, a mettere in circolazione gli scritti, le opere, in traduzione anche, le opere di questi autori, diciamo, lo sforzo è motivato da un duplice intento. C'è indubbiamente un intento pedagogico, educativo. La destra ha lasciato in eredità, in fondo, anche alle correnti democratiche italiane, una grande ispirazione pedagogica. E quindi questa tendenza, una circolazione di queste opere, si può leggere anche in questa chiave. Per di più si tratta di opere scientifiche agnostiche, cioè i cui autori sono agnostici, di opere scientifiche che tendono a presentare una ricostruzione o un'indagine ispirata autonomamente e razionalmente, dei fenomeni naturali. Ecco, se si hanno di mira questi due aspetti, cioè l'intento pedagogico e l'agnosticismo, si intende come la loro miscela potesse costituire uno strumento di anticlericalismo, anche se appunto questa scienza era, perché insomma non c'è necessariamente nella diffusione di questa scienza positivistica e materialistica un intento direttamente ed esplicitamente irreligioso, non c'è sempre. C'è però molto forte l'intento di liberare la scienza, il campo del sapere in genere, da tendenze, da interpretazioni che vengono considerate come eteronome rispetto alla scienza stessa, mi sono spiegato in modo un po' confuso, principio di autonomia, di spiegazione autonoma, naturale e razionale dei fenomeni naturali, e questo di fatto diventa uno strumento anticlericale, anche se Fuchs fosse stato un credente al limite, questo mi pare che dovessi rispondere, dire al professor Stadler, che giustamente non so se è stato chiaro. Also terminologische, der Versuch einer terminologischen Klärung, tatsächlich läuft es darauf hinaus, dass diese Wissenschaft, die mit der Intention pädagogisch aufklärerisch zu sein, antritt, antiklerikal wirkt oder als antiklerikales Instrument. Diventa successivamente, cioè di fatto, come conseguenza, padre Martina, dunque, ha sollevato il problema, anche un problema terminologico, mi sembra, ma io adesso non so, credo che non so quanto il tasso di laicità di entrambi, certo, effettivamente, del resto qui il nostro amico Traniello ha scritto un articolo su questo problema della terminologia di laicismo, anticlericalismo, eccetera, che in parte io ho ripreso, anche se con accenti e così interpretazioni diverse, quindi parzialmente diverse. Quindi sono d'accordo che è un termine che è stato molto discusso. Io ho avanzato quella interpretazione, mi sembra di laicismo, potremmo dire anche di laicità semplicemente, che è riflessa nei dizionari della lingua italiana, ma non dell'epoca successiva, Ecco, quanto poi alla graduatoria dell'anticlericalismo, io ho parlato della necessità di costruire una geografia, diciamo, interna, ma questa graduatoria però di cui lei parla, diciamo, si riferisce al Novecento, che il Messico è il 17, la Spagna è il 36, ecco, io non la saprei fare, non la vorrei fare questa. Dunque, poi a proposito delle caricature, lei ha parlato di questa, lei ha citato una tesi che è stata fatta all'Università Gregoriana sulle caricature. Adesso sulle caricature poi risponderò successivamente a un collega tedesco che ha posto questo problema. Per quel che riguarda ancora l'anticlericalismo, lei ha parlato di vari aspetti che vanno certo distinti, cioè la legislazione anticlericale, le manifestazioni. Sì, insomma, io ho voluto soprattutto nelle indicazioni che ho fornito così, insomma, in quella parte del mio lavoro in cui polemizzavo con un autore peraltro illustre, i cui libri sono molto diffusi, quale appunto il presidente del Senato Giovanni Spadolini, ho voluto polemizzare con questo quadro che mi sembra così inadeguato e anzi profondamente sbagliato, che presenta, ripeto, da un lato questa classe che presenta in sostanza una dicotomia e una contrapposizione tra laicità e anticlericalismo. Da una parte c'è così questa classe dirigente liberale ispirata da sanissimi principi laici, moderata, equilibrata, eccetera, eccetera. Dall'altra ci sono invece le becere, violente dimostrazioni dell'anticlericalismo podrecchiano. Questo è sbagliato, non è vero, non si capisce nulla, insomma, dell'Italia ottocentesca se si dipinge questo quadro. Ecco, questo. E poi il professor Vaz, sì, io ho ben presente quel saggio di Garin, ho presente anche un altro saggio di Garin che è la prefazione a un libro uscito nell'85 su il positivismo della cultura italiana, che è un punto di riferimento importante nello studio nel nuovo studio sul positivismo in questi ultimi anni, in cui appunto Garin sottolinea proprio la necessità di recuperare l'aspetto, diciamo, metodologico del positivismo. Ecco, io ho voluto dire che in fondo nel movimento anticlericale e laico, quale io l'ho studiato soprattutto appunto, insomma, non solo nelle fasce elevate ma nelle fasce medie, sono presenti entrambi questi aspetti. Certo è presente, lo dicevo, lo ripeto, la metafisica del positivismo, ma è anche presente la metodologia del positivismo, insomma, quindi qualcosa, diciamo, che poi è rimasto abbastanza a lungo nella cultura italiana. Ecco, a proposito degli equivoci sul modello tedesco, sì, certo, qui c'è da rispondere, credo, a diversi. Non c'è dubbio che questo modello prussiano e tedesco è assunto, ma con molte contraddizioni, con diverse contraddizioni. Cioè, non c'è dubbio, per esempio, che nella stampa, nell'opinione laica, eccetera, si esalti la Germania, come dicevo, come paese della riforma, cioè come paese che ha dato vita, diciamo, al mondo moderno, al principio di libertà, eccetera, eccetera. Però, ed è vero che diciamo, a questa simpatia si associa, cioè da questa simpatia deriva, diciamo così, la speranza che possa nascere anche in Italia un movimento che in qualche modo risenta dell'influenza del protestantesimo. Certamente questo c'è, però vi sono anche riserve e critiche anche da questo punto di vista, anche nei riguardi del protestantesimo. Faccio un esempio che avevo indicato qui. Nel 71, un periodico fra i più radicali del laicismo italiano, del libero pensiero, in cui pure era diffusa la simpatia per la scienza tedesca, definiva la restaurazione dell'impero tedesco avvenuta col sangue e col ferro un effetto del protestantesimo militare, che diceva è perfino più sanguinoso e assurdo del cattolicesimo. Ora, venendo da liberi pensatori, è un'affermazione molto forte. Perché? Perché evidentemente questo Stato bismarchiano appare come uno Stato autoritario e si avverte, si sottolinea una derivazione di questo Stato dalla riforma luterana. Uno Stato autoritario che deriva da lui. Per quel che riguarda poi l'atteggiamento verso il movimento dei vecchi cattolici, non c'è solo questo risvolto, cioè il risvolto mi pare qualcuno abbia sottolineato, cioè pensiero di Bonghi, la posizione di Bonghi, la speranza, anzi la possibilità a cui crede Bonghi mi pare, no, che questo movimento possa attecchire anche in Italia. No, la protesta di Döllinger è vista, per esempio c'è un indirizzo di professori e studenti dell'Università di Roma nell'aprile del maggio 1871 di solidarietà al Döllinger scomunicato. Perché questo? Non perché si pensi che Döllinger sia un modello da importare in Italia, ma perché la ribellione di Döllinger per questi professori e studenti costituiva il primo passo sulla via della piena autonomia della ragione. Cioè è una visione anche strumentale del movimento dei vecchi cattolici. Ho visto adesso un libro recente di Calogero Valenti, pubblicato nell'89, diffuso anche in Sicilia. In Sicilia. Sì. E gli echi della ribellione, proprio come atto di ribellione al papismo, insomma, no? Alla Chiesa romana, questa esaltazione di Döllinger come ribelle è diffusa nei giornali democratici e anche socialisti. Ecco, e qui rispondo al professor Lille, perché in fondo questi uomini esaltatori della Germania protestante poi non si convertono al protestantesimo, no? Mi pare questo fosse la domanda. Ma perché appunto, insomma, la simpatia verso il protestantesimo è una simpatia così contraddittoria, in parte strumentale anche, insomma, no? Ecco. E soprattutto, appunto, come avevo accennato e come ribadisco, è simpatia verso un paese in cui comunque c'è discussione, c'è vivacità anche su questo terreno, non c'è il monopolio cattolico. Cioè, questo è. Ecco, lei poi solleva il grosso problema dell'atteggiamento delle comunità protestanti nei riguardi nella vita, nella storia italiana dell'Ottocento. Qui io rispondo molto rapidamente. Insomma, generalmente sulla base degli studi compiuti, sono stati sottolineati i legami, anche spesso profondi, che le correnti valdesi eccetera avevano con i movimenti di opposizione, con radicali e repubblicani. Insomma, no? E molti anni fa un compianto collega morto prematuramente, Fernando Manzotti, dimostrò come in alcune regioni del Mantovano la propaganda valdese avesse preceduto la propaganda socialista, avesse fatto strada la propaganda socialista. Quindi c'è una collocazione molto netta dei gruppi protestanti, cioè ecco, di questi gruppi protestanti. Anch'io sono personalmente interessato poi alla presenza di gruppi più moderati, anglicani, eccetera, però non sappiamo molto su questi gruppi, credo che sappiamo più dei valdesi e di altri gruppi, e mi pare che sia molto netta la collocazione, diciamo, nel mondo della sinistra democratica di queste forze, di questi gruppi. Poi forse vorrei rispondere all'amico Mancinelli sul problema degli stereotipi, delle caricature. Ecco, ma qui anche un grosso problema, non sono state molto studiate le caricature. Le caricature credo che siano molto tributarie dell'evangelismo socialista, cioè la tematica, in fondo una tematica endocattolica che, insomma, accusa i preti di non osservare il Vangelo e quindi polemizza contro i preti ricchi, lussuriosi, disobbedienti alle leggi evangeliche, eccetera, è, mi pare, nelle caricature uno degli elementi più forti, almeno per quel che riguarda l'Ottocento. Poi successivamente nel Novecento è diverso, il prete diventa anche militarista, no? Ecco, insomma, credo che quindi per capire bene, diciamo, le caratteristiche, i significati dell'iconografia anticlericale, questa iconografia debba essere collocata anche nei vari periodi della storia dell'Italia anticlericale. Ma perché la diffusione della cultura italiana? Ecco, a proposito del, e concludo con questo, appunto Mancinelli diceva, ma la debolezza della cultura positivistica in Italia. Sì, forse però una debolezza per la quale forse sarebbe tempo di fare una verifica più approfondita, insomma, no? E ho colto infatti in alcuni di questi saggi pubblicati nell'85 in questo libro, ecco, la necessità di queste indicazioni di ricerca sul Novecento per mostrare la persistenza sempre in una cultura media di modelli, di idee, di mentalità, ecco, di tipo positivistico. Ecco, quanto poi certo alla debolezza delle correnti laiche, lei sa, insomma, io credo di dover dare questo giudizio, insomma, credo di dover dare, sarà un giudizio certamente discutibile, insomma, ma è questo. Cioè, da un lato la scarsa consapevolezza da parte delle correnti laiche, democratiche, repubblicane, socialiste, dell'importanza che questi temi avevano nella lotta per il progresso civile del paese. Secondo luogo, poi l'emergere, soprattutto con i socialisti, di temi riguardanti la questione sociale che finirono, diciamo, per prendere il sopravvento sui temi legati ai rapporti fra Stato e Chiesa, eccetera. E in terzo luogo, soprattutto, e questo credo che sia un giudizio su cui poco ci sia da discutere, sul compromesso storico che alla fine dell'Ottocento si concluse fra la classe dirigente italiana e che certo bloccò, frenò e preparò l'emarginazione da questo punto di vista dalle correnti di opposizione. Scusatemi, grazie. Grazie. Allora, pausa fino alle 5. Alle 5 in punto il professor Varnia inizierà la sua relazione. Questo conosco. Sì, quest'altro, sì. Perché io ho fatto un articolo su Zuderling.